la scuola dell'infanzia comunale di Bologna, come per, vale lo stesso discorso per quella statale, ma lì c'è una legge nazionale, è sempre stata gratuita e quindi nel regolamento della scuola dell'infanzia e nella carta dei servizi c'è sempre stato scritto nero su bianco dal 1960, quando è stata istituita, la scuola comunale dell'infanzia è gratuita per tutti. La proposta della giunta, approvata quindi dall'intera giunta, no? Il 21 novembre, toglie questa frase, quindi la scuola dell'infanzia comunale non è più gratuita e si introduce una retta di frequenza che poi dovrebbe comprendere le spese per il pasto, però prima di tutto c'è la questione di fondo, la scuola comunale di Bologna non è più gratuita, quest'anno comprende le spese per il pasto, l'anno prossimo ci sono altre spese, chi lo sa, non è più gratuita, diventa un servizio come i nidi che si pagano e casca uno dei pilastri di ciò che è scuola, che è un diritto di tutti e per tutti, pagato dalla fiscalità generale, non pagato dai singoli. Questa è la cosa gravissima. Poi la giustificazione lì della storia della mensa, quanti sono questi genitori che non pagano la mensa? Non viene detto, anzi si sostiene che sono pochi casi, per cui a maggior ragione uno si chiede, allora perché avete cambiato una questione di fondo, no? Che poi facendo questo la scuola comunale dell'infanzia del Comune di Bologna viene accomunata a quelle private e non più a quelle statali, perché quelle statali restano gratuite, certo. Come le elementari, le medie, perché anche le scuole elementari la frequenza è gratuita, non si paga alcuna retta di iscrizione, retta di frequenza e poi paghi la mensa. Se non ricordo, questa era una disputa anche ai tempi del referendum, no? Se la materna può essere considerata scuola oppure servizio. Esattamente, è la linea dell'amministrazione comunale da tempo è quella di considerarlo un servizio. I servizi però sono domanda individuale, quindi vengono erogati in funzione delle risorse disponibili e ti posso chiedere di contribuire ai costi, no? E questa è la questione vera, no? Il Comune di Bologna è entrato ormai ufficialmente con almeno la giunta, no? Poi speriamo nel consiglio che li faccia ripensare, comunque ha l'intenzione di dire è un servizio e basta, lo gestisco io come mi pare a me, ma è un servizio, quindi lo devi pagare. Voi avete annunciato varie iniziative. Noi abbiamo fatto un comunicato, detto chiediamo che venga ritirato questo provvedimento e andiamo, mobilitiamo i genitori, mobilitiamo i cittadini per contrastare questa cosa, visto che deve andare in consiglio comunale. Poi vedremo cosa succede, non mettiamo avanti il carro davanti ai buoi. Gli strumenti possono essere vari, ma successivamente il primo strumento è che si esprimono i cittadini, specialmente quelli che hanno i figli che vanno alla scuola dell'infanzia, no? Che si vedono cambiare le regole in corso d'opera. È un precedente grave questo comunque? Molto grave, certo, perché hai tolto il principio della gratuità su cui si regge la scuola, perché non a caso l'articolo 34 della Costituzione dice la scuola è aperta a tutti, o se è aperta a tutti vuol dire che non puoi discriminare per motivi economici e sociali, e se invece discrimini allora non è più aperta a tutti, è aperta solo a chi c'ha i mezzi per poterci andare, e quindi diventa come una privata. Era un fenomeno già in corso, come hai bene ricordato tu, da referendum. No? Pillati non ci sta a questi dubbi sulla costituzionalità dicendo beh, ma anche adesso si paga perché si paga la refezione. Sì, ma cosa c'entra? La refezione è un servizio, tant'è vero che ci sono dei cittadini che non lo usano, li mandano a scuola ma gli danno da mangiare loro, no? E non pagano la mensa, quindi sono due robe separate, finora è sempre stato così, cioè che la mensa è considerata un servizio come i trasporti, no? Quindi li paghi. Comunque, visto che la cosa si è messa in questi termini, noi proporremo che allora si renda gratuito anche il servizio di mensa, poi vediamo. Discutiamo di questo allora. Se la scuola è importante, la cultura è importante, diamo il massimo delle possibilità a tutti i piccoli cittadini del futuro di poterci andare, non che ne escludiamo una parte perché non hanno i soldi per pagare la mensa.